Oh, Giad. Cos'è questa? È la Maria. Ah, va? Senti, senti. Casa mia con la Maria a farmi un tè. Caruso, schiarisco la voce e intono un canto. Giovanna di secondo nome, l'ho rivista l'altra estate presso la stazione, e con lei mi sono fatto la stagione. E più che un cuore di panna era un cuore di canna, ma già sapevo che sarebbe finita presto. Non la fanno passare in dogana e per Maria restare un rischio. È ricercata dai pulotti e dai caramba, ha pure dei casini con la guardia di finanza. Ma comunque sì, ho visto che qualche agente di polizia si fa le sue serate in compagnia di Maria. Una condanna della mia vita è il dramma, perché non potrà essere io Maria Giovanna una capanna. Mi è rimasta solo una canzone nel mio corazon. Le vacanze le farò in Giamaica dalla mia Maria bella. Aspetto intanto, voto pannella e canto. Vale a tutta Italia, volevo dire legato. fermo. Legalizzala!